Benissimo, buonasera, ci siamo direi. Aspettiamo solo un minuto o due che si riempie la stanza. Intanto spiego brevemente, noi siamo un gruppo di attivisti che facciamo appunto campagna a favore della legalizzazione della cannabis. E abbiamo iniziato a fare queste stanze inizialmente come confronto fra di noi, come occasione di diciamo un rapporto un po' più partecipato, e con questa congiunta storica abbiamo pensato che fosse utile anche per chiarirci un pochino le idee, dare spazio a tutte quelle quei partiti e quelle realtà politiche che non trovano in realtà uno spazio invece all'interno del mainstream. E per questa ragione ringrazio Giuliano Granato perché molto semplicemente ci ha detto di sì, insomma, non era scontato. Colgo l'occasione per ringraziarlo anch'io. Sì, veramente non era scontato, soprattutto in questo momento che immagino particolarmente impegnativo. Ti passo subito la parola, fatti la prima domanda, che è, spiegaci un momento che cosa è successo, perché da fuori è, almeno parlo per me, ma per molti altri, è assolutamente incomprensibile questa crisi di governo. Magari tu che sei un po' più all'interno hai una tua lettura personale o politica che è in grado di farci capire meglio come stanno le cose. Ti ringrazio ancora e a te la parola. Ah, beh, innanzitutto grazie a voi per l'invito, anche perché penso che sia sempre utile appunto confrontarsi anche in periodi come questi, anzi, a maggior ragione in periodi come questi, che sono estremamente confusi. Non che 10 giorni fa il periodo fosse meno confuso, però sicuramente questa crisi di governo e la caduta del governo Draghi hanno aiutato a non capire, per certi versi, a disaffezionarsi ulteriormente rispetto al panorama politico italiano. Ecco, io cerco di arrivare subito al dunque. Il paradosso di questa crisi è che non se la rivendica nessuno. Cioè, non c'è un partito che è presente in Parlamento che ha rivendicato la caduta del governo Draghi. Non l'ha rivendicata il Movimento 5 Stelle, non l'ha rivendicata la Lega, non l'ha rivendicata Forza Italia, che poi sono i partiti che hanno fatto mancare la fiducia il 20 luglio e che, diciamo, rispetto al passato hanno quindi cambiato tipo di voto, perché poi i Fratelli d'Italia oppure le deputate che diciamo, sosteniamo pure noi come manifesto alla senatrice Nunes Mantero, insomma, da sempre sono opposte al governo Draghi, quindi diciamo, la novità è stata questa. Non l'ha rivendicata nessuno. In realtà, formalmente, la fiducia Draghi l'ha pure ottenuta, quindi in teoria sarebbe potuto proseguire il governo Draghi. Allora, effettivamente, io leggevo inizialmente i commenti di alcuni giornalisti stranieri che dicevano abbiamo difficoltà a far capire in patria come mai sia caduto questo governo. Ed effettivamente c'è, per certi versi, dell'assurdo. Io credo che quello che è successo non sia stato, come si legge ora, per esempio, un complotto della Russia, ma penso che non sia stato nemmeno un piano preciso da parte di qualcuno, no? Per il principale, stando ai sondaggi, il principale indiziato considerato responsabile della crisi sarebbero in conto il Movimento 5 Stelle, ma in realtà io credo che nemmeno loro avessero queste intenzioni, anzi, voci interne al Parlamento dicono che nessuno dei partiti che non ha votato la fiducia a Draghi fino al secondo prima aveva intenzione di far cadere il governo. Era una sorta di teatro, come spesso avviene in Parlamento, semplicemente per mostrare all'esterno che si era un po' più duri, un po' più fermi sulle proprie posizioni, e in realtà poi il tutto è crollato. Perché è crollato? La risposta che mi do io è che in realtà poi a volere la caduta del governo, più di tutti, sia stato Draghi stesso e chi sostanzialmente lo circonda. Nel senso che appunto avrebbe potuto proseguire anche con la fiducia che ha avuto, soprattutto avrebbe potuto arrivare a far votare non la mozione Casini, perché se vi ricordate quel giorno c'erano due mozioni che erano state presentate. C'era la mozione Casini, che era di Urigo, sostanzialmente diceva il Parlamento dà la fiducia al discorso di Draghi, sostiene Draghi, e c'era invece quella più articolata del centrodestra che chiedeva l'estromissione del Movimento 5 Stelle dal governo e quindi la formazione di una nuova maggioranza. Pare, almeno anche dalle fonti che abbiamo noi, che questo obiettivo fosse stato accettato anche dai 5 Stelle, che avevano pattuito col PD l'uscita dal governo e l'appoggio esterno. Quando poi Draghi si è presentato con la mozione Casini, è crollato tutto. Perché dico che è stato Draghi, al di là del fatto tecnico di scegliere una mozione piuttosto che un'altra? Perché io credo che in questo momento ci sia un'enorme paura, non soltanto nella classe politica, ma nella classe dirigente tutta, è la paura dell'autunno, la paura del fatto che il malcontento che già c'è ed è tanto, possa in qualche modo assumere una dimensione pubblica, per certi versi addirittura temono una certa esplosività del conflitto sociale in questo paese, per cui trovarsi poi ad ottobre con un governo che va in difficoltà, che pian piano esaurisce la propria carica, anzi per certi versi quella già l'aveva esaurita, ma che viene messo in difficoltà e quindi messo alle corde, perde anche il consenso che aveva fino a questo momento, non era probabilmente l'opzione preferita. A quel punto, visto che le pressioni esterne, diciamo, dai partiti in Parlamento, una serie di pressioni comunque ci sono, si è probabilmente preferito far cadere il governo, chiamare subito alle urne, e anche su questo aspetto qua io non tralascerei l'importanza di fare veramente una corsa incredibile come mai prima nella storia della Repubblica. Questo secondo me attiene anche al fatto di non volere che le opposizioni o comunque soggetti nuovi potessero costruire un certo consenso nel paese, perché non c'è proprio il tempo sostanzialmente, visto che la campagna elettorale sarà una campagna elettorale sotto gli ombrelloni, e arrivare poi a ottobre alla formazione di un nuovo governo che si troverà subito a fronteggiare effettivamente, al di là della dimensione pubblica del malcontento, l'essenza di un malcontento dovuto al caro vita, all'aumento dei prezzi di ogni bene, soprattutto di quelli di prima necessità, ad una guerra in Ucraina che continua, anche se ormai non se ne parla praticamente più, i salari stagnanti, insomma, di fronte ad una serie di difficoltà per cui non sarà facile, e a quel punto nulla vieta che il nuovo governo messo alle strette possa cadere e si possa dare vita nuovamente a un governo tecnico. Ecco, io credo che sia questo grosso modo lo scenario, per cui insomma, mi sembra che sia questo, diciamo, una delle chiavi di lettura possibili della crisi, altrimenti onestamente non, io sono uno di quelli che è solito non pensare che ci sia troppo l'elemento individuale del litigio tra, non so, Draghi e Conte, tra Conte e Letta, queste cose qua, perché ragiono sempre come chi sta in Parlamento è rappresentante di blocchi sociali, per cui anche il comportamento individuale per certi versi viene temperato da quelli che sono gli interessi che si portano lì dentro, anche se effettivamente ogni tanto anche il carattere individuale può contare. Questa, grosso modo, comunque è la lettura che do io, che diamo noi. Poi, se, diciamo, dimmi voi pure, insomma, anche un po' i tempi, perché io solitamente parlo sempre tanto, quindi posso andare anche veramente a lungo. Guarda, hai parlato, sì, hai parlato abbastanza, ma hai detto tutte cose interessanti, assolutamente condivisibili, che abbiamo ascoltato volentieri, quindi non c'è problema. Al limite ti fermiamo se dovesse essere Ok. incontenibile il tuo discorso. Comunque, dopo la crisi, il potere del popolo confluisce insieme ad altri in Unione Popolare. Gli obiettivi e i programmi, quali sono, su cosa questa coalizione intende puntare? Te lo chiedo nello specifico, perché i programmi, insomma, sono molto vasti, nello specifico rispetto alla questione dei diritti civili, che forse sposterà poco dal punto di vista economico, però per moltissime persone che non sono più rappresentate in alcun modo a livello politico, può essere anche a livello di vita personale, quindi sempre per tornare sul malcontento sociale. Io credo che sia uno dei temi che debba essere portato avanti in maniera, come dire, dichiarata ed esplicita. E quindi ti chiedo, appunto, potere al popolo insieme a Rifondazione, insieme a De Magistris, confluisce in Unione Popolare, quali sono i vostri obiettivi, in termini programmatici sui diritti civili e quali le eventuali alleanze che a tutt'oggi, perché capisco che sia in evoluzione, state pensando? Certo. Allora, innanzitutto permettimi di dire che in realtà Unione Popolare nasce prima della crisi di governo. Noi sono mesi che ci stiamo non solo confrontando, ma anche costruendo delle mobilitazioni insieme, non soltanto a Rifondazione Comunista, a De Magistris, alle deputate, in particolare alle deputate di Manifesta, ma anche insieme ad associazioni, collettivi. Ci siamo mossi inizialmente soprattutto sul tema della guerra, perché ci sembrava che su quello, anzi non ci sembrava, è oggettivo che in Parlamento non c'era una vera opposizione, nessuno praticamente si è schierato contro l'invio delle armi, per cui abbiamo cercato, non potendoci mobilitare eccessivamente all'interno delle istituzioni, perché non abbiamo rappresentanti, di mobilitarci all'esterno. Sulla base di quelle mobilitazioni comuni abbiamo aperto il ragionamento di costruire una presenza anche elettorale. Chiaramente ragionavamo su tempi più lunghi, per cui avevamo già cominciato a discutere di processi di costruzione di partecipazione dal basso, anche di piattaforme eventualmente informatiche, insomma, per stimolare e, diciamo, costruire e organizzare la partecipazione, che poi, come potere al popolo nello specifico, è una delle ragioni per cui siamo nati, una delle ragioni fondative. Con la caduta del governo Draghi, chiaramente c'è un'accelerazione, per cui tutta una serie di tappe andranno necessariamente bruciate, e fatemelo dire, insomma, chi ne risente principalmente il processo democratico, ma non soltanto, diciamo, come costruzione di Unione Popolare, dico a 360 gradi. Nello specifico, come Unione Popolare, chiaramente anche da questo punto di vista, come programma è in costruzione, visto che arriverà dal confronto tra ci sono già insomma al lavoro una serie di persone, da professori universitari, attivisti sociali, insomma varie persone che stanno lavorando per ora appunto a 360 gradi. Poi andranno sicuramente individuate delle priorità. Tra queste sicuramente ci sarà la questione del salario minimo di almeno 10 euro, che è una campagna che noi già abbiamo lanciato e abbiamo già fatto partire ufficialmente da un paio di mesi. In realtà ci stiamo lavorando da molto più tempo, ci siamo confrontati con sindacalismo di base, con associazioni, abbiamo chiesto un confronto anche per dire a Fridays for Future, che poi in questo momento è un attimo tra parentesi, vista la caduta appunto del governo e poi il campeggio che hanno avuto loro, diciamo, pochi giorni fa. Insomma, questa è la questione del salario minimo sicuramente. Il secondo tema è quello di una transizione ecologica, quindi una legge nazionale contro il consumo di suolo, visto che sono 14 anni che se ne parla, ma questa legge non si fa. Una direzione chiara verso le rinnovabili, visto che il governo Draghi ha portato in realtà un ritorno al fossile con la costruzione di rigassificatori, l'acquisto di navi rigassificatrici come quella che ad esempio sarà al porto di Piombino, a meno che il progetto non venga fermato. Invece una direzione chiara affinché l'Italia possa avere nel tempo, non chiaramente domani mattina, ma nel tempo come direzione, il 100% di energie rinnovabili. Posso andare a lungo su questi perché sono già alcuni punti che chiaramente sono già patrimonio delle realtà che hanno dato vita a Unione Popolare, però preferisco concentrarmi per l'appunto sulla domanda. All'ultimo, permettimi di dire questa cosa, cioè sempre sulla guerra, lì c'è un tema chiave, visto che poi la differenza di fondo, credo, tra di noi e tanti altri soggetti politici, visto che sottolineano sempre tutti quanti la fedeltà euroatlantica, a noi sembra sempre che sia, cioè, tra virgolette, degli zerbini e poi il cane fedele, perché e non c'è una vera e propria autonomia, non soltanto dell'Italia, ma anche dell'Unione Europea rispetto a quello che definiscono alleato, ma in realtà è un po' il padrone statunitense, per cui c'è una strategia totalmente subalterna. Noi crediamo che l'Italia e l'Unione Europea avrebbero dovuto giocare un ruolo diverso, non sarebbero dovuti diventare co-belligeranti, per cui c'è ancora tanto da fare. L'Unione Europea potrebbe, ci sarebbero ancora i margini per porsi come attore di pace, e quindi per ospitare conferenze internazionali per la pace, dirimere quantomeno una serie di conflitti all'interno del conflitto che ci sono. Invece abbiamo lasciato la palma di uomo della pace a Erdogan, che consideriamo, diciamo, non è né democratico né un uomo di pace, visto che massacra quotidianamente i curdi dentro e fuori la Turchia. Arrivando alla domanda più specifica, alla questione dei diritti civili, il ragionamento di fondo che facciamo da sempre è che noi non contrapponiamo diritti civili a diritti sociali e a diritti economici come fanno altri. Ci sono alcuni, diciamo, che provengono per certi versi, almeno come dichiarazioni di, diciamo, di origine, ma originano dalla sinistra, e che ritengono che i diritti civili siano diritti di serie B, per cui anzi accusano una certa sinistra, e quando dicono così si riferiscono soprattutto al PD, accusano il PD di essersi dedicato soltanto ai diritti civili e di aver dimenticato i diritti sociali ed economici. Io posso anche essere d'accordo su questo tipo di critica, detto che molto il PD è molto camouflage per certi versi, non è che poi in effetti non porta avanti leggi sui diritti civili. Nell'ultima legislatura vi sfido a trovarne una che sia stata approvata. Molto spesso sono state battaglie di bandiera soltanto per poter prendere voti nel proprio elettorato, ma poi nei fatti non è stato sostanzialmente nulla. Noi crediamo che invece i diritti civili e i diritti economici e sociali procedano di pari passo, che i diritti civili siano una questione di classe. Faccio l'esempio, uno degli esempi che si può fare stando alle cronache delle ultime settimane. Quando c'è stato l'attacco al diritto all'aborto negli Stati Uniti, lì c'è una questione fortemente, non soltanto tra virgolette di genere, perché è chiaro che si decide sul corpo delle donne, ma anche di classe, perché non è che viene vietato l'aborto, non è che non ci saranno più gli aborti negli Stati Uniti. Gli aborti ci saranno, continueranno semplicemente per diciamo, le donne che hanno un po' di soldi, donne ricche, semplificando, potranno rivolgersi altrove, spendendo migliaia di dollari, potranno comunque abortire. Le donne povere saranno costrette invece a ricorrere ad aborti clandestini, che mettono a rischio la salute propria e che mettono a rischio la propria salute. Quindi da questo punto di vista c'è anche una matrice fortemente di classe nell'attacco ai diritti civili, e noi cerchiamo di interpretarli sempre da questo punto di vista. Quindi su questo, diciamo, anche nel programma, sia quello originario di Potere al Popolo che quello che stiamo costruendo come Unione Popolare, ci sarà una forte attenzione a questo aspetto qua, che poi paradossalmente è quello che distingue noi da tanti altri, mi sento dire. Noi, per esempio, come Potere al Popolo abbiamo partecipato alle campagne referendarie, sia quella sul fine vita, sia quella sulla cannabis, in particolar modo anche, Grazie alla presenza del senatore Matteo Mantero, che immagino che insomma, qualcuno di voi abbia anche avuto il piacere di conoscere, forse anche personalmente, per il suo impegno in questa legislatura in particolare, soprattutto sulla questione cannabis, ma anche sulla questione fine vita, anche Doriana Sarli alla Camera dei Deputati, insomma anche grazie alla loro presenza, noi siamo stati all'interno di queste campagne referendarie, abbiamo aiutato, abbiamo dato il nostro piccolo contributo a raccogliere le firme, soprattutto poi tramite Speed, poi su questo magari ci torniamo, abbiamo costruito banchetti, insomma si è costruito anche in tante città una bella comunità anche di persone e di attivisti che non conoscevamo perché erano impegnati in battaglie specifiche che magari non necessariamente si incrociavano tutti i giorni con le nostre, per cui noi crediamo che da questo punto di vista ci sia da fare molto, che si possa fare tanto, anche se non guardiamo a modelli di chissà che tipo di trasformazione, basta guardare alle ultime riforme che sono state approvate dal governo spagnolo in tema di diritti civili, di diritti delle donne, per dirci che si possono fare tante cose. Sono come al solito qui molte battaglie che si fanno sono per certi versi di bandiera e presuntamente culturali, infischiandosene poi del benessere degli uomini e delle donne di questo paese, visto che in realtà molto spesso sono riforme a costo zero, per cui non prevedono nemmeno chissà quale tipo di esborso. E noi, per esempio, su una, giusto per tornare sul tema che è l'unico che ho affrontato un po' più nel dettaglio, anzi meno nel dettaglio, però di cui ho parlato un minimo, quello dell'aborto, per esempio, al di là di quello che succede negli Stati Uniti, il problema in Italia ce l'abbiamo soprattutto a causa degli obiettori, per cui sulla causa il diritto all'aborto è garantito, ma nella realtà di tutti i giorni a tantissime donne viene costantemente negato. Ci sono regioni come il Molise in cui c'è un medico obiettore che praticamente è in pensione e quindi ci sono difficoltà, ci sono regioni soprattutto del meridione, ma non solo, in cui gli obiettori sono la stragrande maggioranza, per cui se una donna vuole abortire veramente deve attraversare le forche caudine. Giuliano, scusa, io mi ricollego brevemente a quanto dicevi adesso, non solo sui diritti, ma anche sullo Speed, perché in questi giorni stiamo assistendo alle varie iniziative di Marco Cappato, fra cui la lettera al presidente Mattarella, per consentire la sottoscrizione delle liste elettorali tramite Speed. Sappiamo che Potere al Popolo ha lo stesso problema attualmente. Volevo chiedere, oltre ovviamente, al sostegno e all'appoggio agli appelli di Marco Cappato, se Potere al Popolo ha in programma qualche iniziativa specifica per questo. Sì, allora su questo parto dalla fine, parto da Speed e Cappato. Noi assolutamente sosteniamo la petizione insomma, fatta parte da Marco Cappato sulla questione dello Speed. Abbiamo in programma delle iniziative che però stiamo ancora costruendo, soprattutto in realtà poi di lancio della raccolta firme, in cui chiaramente denunceremo anche quello che è il carattere fortemente antidemocratico delle norme vigenti. E su questo mi permetto una digressione, nel senso. Dice, noi come Potere al Popolo siamo costretti a raccogliere le firme, come Unione Popolare a maggior ragione, visto che è un soggetto nuovo. Non che ci sia qualcosa di male nel raccogliere le firme, io posso capire che uno voglia mettere una soglia minima per evitare che chiunque una mattina si svegli e possa essere candidato, anche se onestamente gli fa sempre paura al legislatore, fa sempre paura una maggiore democrazia e mai una minore democrazia. Comunque, anche facendo salvo il punto di partenza, il problema è che facendo anche il nostro esempio specifico, nel 2018 Potere al Popolo raccoglie l'1,13% dei consensi, quindi supera l'1%. Nella stessa tornata elettorale, il partito di Maurizio Lupi, di cui ora non ricordo nemmeno il nome onestamente, raccoglie Noi con l'1,3%. l'Italia, mi sa, forse. Qualcosa del genere, sì, quelle cose che un po' tutte allo stesso modo, quindi mi Sì, noi confondo. dovrebbe essere noi con l'Italia, sì. È raccolto l'1,3%, quindi anche loro sopra l'1%, ma sotto il 2%. Con la legge che si sono scritti pochi mesi fa, in particolar modo l'articolo 6 bis del decreto elezioni, che è un decreto che è stato fatto per le elezioni comunali, in cui hanno imbucato questo articolo 6 bis, che sostanzialmente prevede l'esenzione per quasi tutti i gruppi, i partiti, le componenti presenti in Parlamento, l'esenzione dalla raccolta firme per le successive elezioni politiche. Per cui succede che se tu hai un gruppo parlamentare non devi raccogliere le firme. Cioè ci sono 1500 clausole sostanzialmente, l'ultima che è quella più vergognosa probabilmente, è questa qui che salva Lupi, che dice che se tu hai ottenuto l'1% dei voti alle ultime elezioni nazionali o europee, sei esente dalla raccolta di firme purché quell'1% tu l'abbia raccolto facendo parte di una coalizione. Per cui Lupi, che era nella coalizione centrodestra, può evitare di raccogliere le firme, mentre Potere al Popolo, che è andato da solo, non può godere di questo diritto, a questo punto diventa un privilegio e invece dovrà raccogliere le firme. da questo punto di vista, a me sembra che ci sia un chiaro vulnus. Noi ci stiamo muovendo anche con avvocati per capire che tipo di margini ci sono, perché onestamente ci sembra veramente che il Parlamento si sia autoconcesso, o meglio, che il Parlamento abbia concesso ai partiti di maggioranza, ai partiti più pesanti, anche presenti là dentro, un privilegio, invece abbia detto a chi è fuori dal sistema: fregate, voi invece dovete raccogliere le firme. A maggior ragione in un periodo come questo, perché in un periodo come questo, in cui la gente si spera che, insomma, in parte quantomeno è in vacanza, è sotto l'ombrellone, fuori regione spesso, è molto più complicato raccogliere le firme. Io ricordo che la scadenza è il 22 agosto, praticamente abbiamo 20 giorni. Per raccogliere le firme bisogna chiudere tutto, bisogna chiudere le liste, perché tu le firme le vai a raccogliere sui candidati, quindi bisogna chiudere sostanzialmente tutto il prima possibile e partire poi con la raccolta firme. Da questo punto di vista, a me sembra che siamo di fronte all'ennesimo privilegio che si autoregala diciamo la casta politica di questo paese. E poi c'è l'altro aspetto, che è quello di simboli che ormai non esistono da anni, che sono detenuti da singoli personaggi, che vengono concessi di volta in volta alla persona o al gruppo a cui vuoi fare piacere. È successo cioè proprio in questa tornata qua, già è stato annunciato che il simbolo di Tabacci, Centro Democratico, che se non erro nel 2018 era stato concesso a Emma Bonino per Più Europa, questa volta sarà concesso a Di Maio per il suo Insieme per il Futuro, ma credo che il nome non sarà questo alla fine. E c'è stato Italia Viva, che ha cambiato nome del gruppo parlamentare, denominandosi Italia Viva, l'Italia c'è, per permettere a Falasca, ex Sempre Più Europa, e a Pizzarotti, ex 5 Stelle e poi diciamo indipendente, di candidarsi senza raccogliere le firme. L'EU ha cambiato denominazione il giorno dopo la caduta del governo, denominandosi l'EU Articolo 1 Sinistra Italiana, concedendo così a Sinistra Italiana la possibilità di non raccogliere le firme. Insomma, tutti quelli che stanno dentro il Parlamento si sono autoconcessi questo privilegio, rimangono fuori Unione Popolare, credo Italexit e un'altra possibile. E c'è anche un altro gruppo che lo ha fatto da Marco Volt, Rizzo, credo anche Volt. Sì, anche se io la stavo diciamo citando soprattutto quelli che so, almeno per le intenzioni, che vogliono andare a candidarsi non in coalizione, non mettendo i propri, cioè anche per il partito gay LGBT plus, che dovrà raccogliere le firme, cioè insomma tutti questi qua dovranno raccogliere le firme. Chi è fuori dal sistema deve raccogliere le firme, chi invece aveva qualche aggancio o c'è qualche convenienza si è concesso questo privilegio. Tra l'altro per noi è altra roba. Tra l'altro vorrei sottolineare che in questo stesso decreto sono stati spostati i termini inizialmente da quello che era marzo 2018 a dicembre 2021, perché come dicevi tu, altrimenti per fare due nomi, Renzi e Calenda, non sarebbero potuti rientrare. Esatto. Poi c'è anche l'agevolazione, se non sbaglio, per Coraggio Italia. Cioè, veramente hanno fatto una norma che ai vari prevede esenzioni per ognuno. Ognuno si è ritagliato ad hoc il vestito per non raccogliere le firme. Le hanno trovate tutte. Onestamente questo non è un paese democratico. Poi ieri mi trovavo a battibeccare con un ex, credo senatore del Partito Democratico della Seta, ex Lega Ambiente anche, perché noi stiamo facendo appelli a darci una mano, a trovare volontari e volontarie della democrazia, che a prescindere poi dal voto che esprimeranno il 25 settembre, hanno a cuore il fatto che anche altre forze possano essere presenti in questa tornata elettorale. E lui parlava si chiedeva perché dovessero regalarci l'esenzione dalle firme. A parte che noi non chiediamo l'esenzione dalle firme, diciamo nello specifico, non stavamo chiedendo questo, ma la questione è, tu pensi che il problema sia un eventuale regalo a noi per l'esenzione, ma invece di questi altri regali di cui stiamo parlando, cioè, per capirci, Centro Democratico, se non sbaglio, è stato eletto, ha avuto degli eletti nel 2013 con lo 0,100 dei voti. Dal 2013 a oggi, cioè 10 anni dopo, non si è mai più presentato, soltanto che Bruno Tabacci detiene quello e ogni volta lo regala a chi, diciamo, gli sta simpatico. Questa non mi sembra che sia democrazia, mi sembra che siano dei privilegi che si passano poi, in questo caso nemmeno di padre in figlio, diciamo di amico in amico. Totalmente d'accordo. E invece volevo andare un attimo proprio sul punto specifico per quanto riguarda la cannabis. Scusa, fermo un attimo solo per dire che è possibile ascoltarci anche su Radio Spini nel fianco. Dovevo dirlo all'inizio, ma ci ho un po' dormito, chiedo scusa. È possibile, siamo in diretta su Radio Spini nel fianco. Grazie. Prego. Per l'aggiornamento, Anna. E, no, dicevo, considerando che prima nominavi il senatore Mantero, l'onorevole che comunque ha depositato in questa legislatura il manifesto da parte dell'associazione Free Weed, e volevo chiederti dunque questo proprio nello specifico, se il manifesto rientrerà magari integralmente nel programma elettorale di potere al popolo, o se comunque, o verso quale direzione il partito intende andare per quanto riguarda la regolamentazione della cannabis. Sì, no, la direzione è sicuramente quella, nel senso che Mantero poi l'ha presentato, credo, nel 2019, voi su questo sicuramente sarete più precisi di me. Quindi prima che entrasse, poi, che uscisse dal Movimento 5 Stelle, entrasse in potere al popolo. Però devo dire che noi abbiamo sposato praticamente tutte le sue battaglie, alcune non le conoscevamo, vi dico la verità, perché poi non è che conoscevamo tutti i senatori, i deputati, quindi abbiamo avuto la fortuna di conoscere Matteo e ci siamo incontrati, ci siamo trovati su punti politici e devo dire che lui ci ha dato una grossa mano anche su altri temi, per portare in Parlamento ad esempio una norma sulla questione delle delocalizzazioni e delle chiusure selvagge da parte soprattutto delle multinazionali. E noi abbiamo sposato le battaglie che lui già aveva, già portato dentro il Parlamento, noi magari fuori avevamo contribuito, lui già aveva portato dentro, e questa della cannabis è sicuramente diciamo la principale. Proprio oggi tra l'altro lo sentivo, a parte che diciamo vi saluta, nel senso che poi credo che appunto voi l'abbiate anche conosciuto di persona. E diciamo quello, il manifesto attivo è la base. Io ho apprezzato molto il metodo, onestamente, che ha utilizzato Mantero, nel senso che per l'appunto questo manifesto nasce all'esterno, non è stato elaborato da un senatore, da un gruppo, è stato elaborato all'esterno da quello che appunto sono centinaia di realtà associative, migliaia di persone che hanno contribuito a questa stesura, e a quel punto il rappresentante del popolo, perché quello dovrebbero essere senatori e deputati, ha svolto il proprio ruolo e ha tradotto, o meglio, ha portato nel caso specifico, ha portato queste istanze all'interno del Parlamento. A me sembra indicativo, lo sottolineo come metodo, perché credo che poi sia questo sia per certi versi il sale della democrazia, cioè noi non possiamo pensare agli eletti come a delle persone che arrivati appunto in Parlamento poi si muovano in maniera staccata rispetto a quel pezzo di popolo che ha contribuito a eleggerli o che comunque rappresenta. E credo che quindi questa sia la prima indicazione chiave. Secondo luogo, diciamo, mi sembra che tutte anche le motivazioni di fondo per la battaglia per la legalizzazione della cannabis siano valide. Anche lì, cioè, per certi versi, quando io mi sono approcciato inizialmente alla questione, c'erano delle cose che veramente non capivo, e per certi versi ancora un po' stento a capire, se voglio essere ingenuo. Cioè, noi siamo un paese in cui, diciamo, viene sanzionata a livello amministrativo, cioè a livello penale viene sanzionato la produzione, invece il consumo viene sanzionato a livello amministrativo. Cioè tu legislatore mi stai dicendo che io sostanzialmente devo comprare cioè la cannabis la devo comprare in mano agli spacciatori, alla criminalità organizzata, e anziché per prevedere dei provvedimenti che possano contrastare la criminalità organizzata, che dovrebbe essere uno degli obiettivi principali della politica, quello di appunto debellare la criminalità organizzata, in realtà io sto favorendo questo business che tra l'altro è di miliardi e miliardi ogni anno, per cui diciamo invece procedere in senso completamente contrario, quindi sostenere il manifesto collettivo significa innanzitutto diciamo combattere le mafie, significa permettere allo Stato di recuperare soldi sia in tassazione sia in minori spese, perché ad esempio si potrebbe evitare che le forze dell'ordine siano impiegate per lo più nel contrasto all'utilizzo, al consumo della cannabis, che onestamente diciamo mi sembra l'ultimo dei problemi di questo paese, potrebbero concentrarsi su questioni più importanti. E poi c'è la questione anche diciamo dell'uso terapeutico, anche l'assenza di qualunque tipo di rispetto nei confronti delle persone sofferenti che potrebbero giovarsi dall'utilizzo della cannabis, e che invece vengono continuamente, cioè la sofferenza che già hanno gli viene inflitta ulteriore sofferenza soltanto anche lì per ragioni di carattere ideologico. Io credo che, diciamo, il ruolo della politica dovrebbe essere, se non, cioè, voglio essere enfatico, però dovrebbe cercare di portare felicità nella vita delle persone. Quindi se si può rimuovere sofferenza bisognerebbe rimuoverla. Mi sembra che invece il legislatore, ma non soltanto in quest'ultima legislatura, da anni, sia invece propenso a fare esattamente l'opposto. Anche là, se guardo un po' di passaggi che hanno permesso leggeri miglioramenti, o anche non leggeri, insomma, comunque dei miglioramenti, c'è stato il referendum del 93, quindi un referendum popolare. Poi c'è stata la Corte Costituzionale con un pronunciamento del 2014. Mi sembra che veramente l'assente per eccellenza sia proprio il legislatore, sia la politica, sia il Parlamento, così come per il fine vita. Ci sono appelli su appelli, onestamente hanno cominciato non tanto gli appelli, ma le risposte agli appelli dei politici hanno cominciato anche un po' a rompere, perché se uno vuole agisce, se uno invece risponde sul giornale. C'è stata una campagna qualche mese fa, no, con le risposte anche del Presidente della Camera, Fico, di diversi deputati, che dicono questo è il momento di legiferare sul fine vita, e poi non si arriva mai a farlo. Evidentemente non è considerato priorità politica, non si spinge, non si mette la fiducia su questo tipo di provvedimenti, chissà perché vengono ritenuti meno importanti, quando invece, lo diceva Anna all'inizio, sono provvedimenti che aiuterebbero a migliorare concretamente la vita di milioni di persone. Nel caso della cannabis, i consumatori sono stimati credo tra i 5 e gli 8 milioni, quindi significherebbe anche permettere che 5-8 milioni non solo escono dalle maglie della criminalità organizzata, cioè non devono più rivolgersi alla criminalità organizzata, ma che possono anche stare un po' più tranquilli su quello che si consuma, visto che ad oggi quello che si consuma, credo che nel 98% dei casi, se leggevo bene, contiene, diciamo, un mix che certamente non è proprio il massimo della salute, oltre poi alla questione della produzione. Io sono di Napoli, la provincia di Caserta era conosciuta per la produzione ad ampio raggio della canapa, poi è stata sostanzialmente devastata la produzione. Lì c'è anche una questione di inquinamento dei terreni che viene contrastato da questo tipo di produzione, c'è un'economia territoriale che si può far ripartire, posti di lavoro, insomma si parla tanto di rilancio del sud, si parla tanto anche di settore agricolo, anche qui non si capisce per quale motivo non si possa puntare sulla canapa. A proposito di criminalizzazione, come dicevi tu, sappiamo bene che una delle principali ricadute in negativo della 309-90 è appunto sul sovraffollamento carcerario. In merito a questo, mi piacerebbe chiedere, la domanda mi è venuta proprio ascoltandoti, se Potere al Popolo magari abbia in mente qualche tipo di politica particolare a supporto e a sostegno della situazione nelle carceri italiane. Sì, questo è un capitolo che a noi sta molto molto a cuore. Sappiamo, diciamo, anche qui, noi facciamo politica, nel senso, lo dico, non facciamo semplicemente elezioni. Sappiamo che dal punto di vista elettorale può anche non pagare una cosa del genere, però a noi non interessa, perché a noi interessa portare avanti le battaglie politiche che possano migliorare la vita delle persone. Noi nelle carceri ci lavoriamo, siamo a contatto con detenuti tutti i giorni, abbiamo ad esempio sostenuto diciamo, non solo le proteste che ci sono state quando è scoppiato il Covid, quando c'è stato il lockdown, ma stiamo seguendo con i nostri attivisti anche i ricorsi che sono stati fatti, in particolar modo da 8 detenuti che hanno denunciato le torture subite nel carcere di Modena e poi nei trasferimenti, le morti, ma io non voglio manco, cioè, vabbè, definiamole così, sospette che ci sono state, quindi siamo costantemente a contatto. E tra l'altro, al di là di questi episodi che poi sono arrivate agli onori delle cronache, così come la tortura nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il problema vero è la quotidianità, il problema vero è la vita che si fa in carcere. Le carceri non solo sono sovraffollate, ma nelle carceri credo che ci sia un consumo spaventoso di psicofarmaci. Ormai il disagio viene trattato soltanto con la somministrazione di psicofarmaci, e per cui, diciamo, veramente sono delle discariche sociali. Le carceri andrebbero chiuse. Per cui noi sì, assolutamente, noi considerate che nel programma del 2018 uno dei punti su cui poi fummo più attaccati e che divenne caratteristico, perché i media avevano interesse a farlo diventare caratteristico, per noi era uno dei vari punti programmatici, era l'abolizione del 41 bis, perché per noi il 41 bis comunque, diciamo, è tortura, così come tra l'altro c'è il pronunciamento delle corti europee su questo. Ma al di là del 41 bis, noi crediamo che le carceri vadano chiuse sostanzialmente, e quindi che ci sia bisogno di misure alternative che tra l'altro funzionano, perché la recidiva per chi esce dal carcere è altissima, per chi invece viene assegnato a misure alternative viene, non dico azzerata, però viene abbassata tantissimo. Noi abbiamo anche lavorato, diciamo, anche con mondi che per certi versi sono distanti da noi, quantomeno con orientamento ideologico, pastorali carcerari, insomma, proprio per cercare di proporre delle soluzioni da questo punto di vista. E il tema carcere, in un paese civile, non dovrebbe essere legata alle ultime pagine. Stiamo parlando comunque non soltanto delle migliaia di persone che sono detenute in condizioni veramente vergognose, ma anche delle famiglie che stanno fuori. Abbiamo fatto più e più battaglie su questo e continuiamo, perché per noi è veramente, ce lo diceva Dostoevskij, il grado di civiltà di una società si vede dallo stato delle proprie prigioni. Noi crediamo che sia una frase assolutamente vera, e crediamo che, insomma, sia una battaglia di civiltà che vale la pena di combattere, anche se devo dire che rispetto ad altro tipo di battaglie si incontrano molte più resistenze anche da persone che su altre battaglie ti trovi accanto, invece su quella del carcere, diciamo, si è fatto largo, soprattutto negli ultimi 20 anni, direi, un'egemonia securitaria per cui bisogna metterli in carcere e buttare le chiavi. Quando poi, insomma, c'è anche lì la dimensione di classe fortissima, non a caso stanno soprattutto i reati, sono soprattutto spaccio di droga, sono reati minori. Poi c'è la dimensione di classe, invece dei reati di colletti bianchi, che in carcere non ci vanno mai, anche se fanno molto più male alla società nel complesso, sia come sottrazione di fondi, sia come problemi sociali che vanno a creare con i propri reati. Ecco, Vai, ti Anna. diamo, scusa, riprendo la parola io per precisare, perché forse in alcuni momenti l'ho perso il discorso, ti chiedo scusa, per precisare rispetto alla legalizzazione anche la posizione rispetto alle altre sostanze, raccogliendo una domanda che è arrivata, nel senso che oltre a una questione economica di decongestionamento di tribunali, carceri, una questione di giustizia, diciamo, personale e sociale, c'è un aspetto che è fondamentale, che è quello della salute pubblica, cioè noi tutti paghiamo i costi dello spaccio e dell'uso e della circolazione indiscriminata delle sostanze, anche estremamente pericolose, a disposizione dei minori, per esempio, eccetera. Quindi, in un mondo ideale, la politica dovrebbe assumersi la responsabilità di controllare il traffico di tutte le sostanze, di rimuoverle, di metterle in determinate situazioni, diciamo, lontane dai minori e di protette rispetto al resto della società. Quindi ti chiedo se all'interno di tutto questo è anche considerato proprio questo aspetto, cioè il primo passo sarebbe l'idea della cannabis, ma in realtà il controllo andrebbe esteso un po' a tutto. Guarda, su questo io dico, uno dei motivi per cui la cannabis andrebbe legalizzata è perché ad oggi, quando tu vai da uno spacciatore, lo spacciatore c'è una pluralità di prodotti che ti può offrire e ha tutto l'interesse per certi versi a offrirtene altri che non siano la cannabis, perché magari sono più redditizi dal suo punto di vista. Diciamo, quindi su questo, diciamo, se un altro dei motivi sarebbe per l'appunto cominciare effettivamente a differenziare, a controllare maggiormente. Noi sulla, se mi chiedi sulla questione della legalizzazione, tra virgolette, delle droghe pesanti, noi diciamo come potere al popolo, no, su quello non siamo d'accordo. C'è tutta una discussione in campo anche con associazioni e poi c'è una differenza chiaramente anche lì tra consumo e commercializzazione. Però diciamo noi nello specifico, anche come punti programmatici, siamo sempre concentrati sulla cannabis nello specifico. Quindi diciamo su questo mi sento di dire. Poi, se vogliamo passare anche all'altro punto che toccavo prima, che comunque diciamo anche le sostanze, diciamo, gli psicofarmaci che vengono spesso utilizzati, diciamo anche da questo punto di vista, anche su quello noi siamo per esempio assolutamente contrari alla medicalizzazione del disagio, cui anche in termini di ragionamento sul tipo di psichiatria, diciamo, di come si affronta il disagio mentale, noi da questo punto di vista cerchiamo di contribuire. Diciamo, per quello che possiamo chiaramente come forza politica ad un ragionamento che cerchi di affrontare il disagio mentale, che poi spesso è anche disagio sociale, non attraverso la somministrazione facile di farmaci. I farmaci certo possono servire, però non sono né la soluzione, possono essere dati, come spesso succede, tra virgolette, semplicemente per spegnere momentaneamente quel disagio, ma quel disagio rimane. Bisogna rimuovere le cause. Qua non è che sto facendo il discorso su bisogna fare la rivoluzione e cambiare tutto dall'oggi al domani, perché altrimenti il disagio mentale continuerà, però certamente viviamo in una società malata, il disagio è aumentato enormemente, anche l'uso e abuso di psicofarmaci è aumentato, soprattutto tra le giovani generazioni c'è una proliferazione, c'è un allargamento della fascia del disagio che veramente fa paura. Se io sono andato quest'inverno in diverse scuole occupate, in particolar modo a Roma, ma non solo, lì, diciamo, tra il tema su cui era la riflessione collettiva, che tra l'altro era molto salutare, era proprio quello del disagio e di come affrontarlo. Ecco, il fatto che ci sia una sanità a cui, diciamo, all'affrontare la salute mentale viene destinata una parte assolutamente minoritaria del budget, sotto i livelli che sono stabiliti stesso, insomma, dalle normative, ma in ogni caso insufficienti, che ci sia un precariato incredibile nelle ASL, per cui ti trovi delle persone che hanno bisogno di essere seguite con costanza, che si trovano ogni 3 mesi un riferimento differente perché c'è una rotazione, un turnover a causa del precariato. Mi sembra che sia il modo sbagliato di affrontare la questione. E chiudo sulla questione, diciamo, non c'entra in questo caso col farmaco in sé, ma sulla questione del bonus psicologo, anche lì, diciamo, la richiesta che c'è stata di 85.000 domande che ci sono state a fronte di fondi stanziati che ne soddisfacevano soltanto 16.000 è indice dell'enorme disagio che ci sta, dell'enorme richiesta che ci sta da questo punto di vista, ma non si può affrontare né con, non si può affrontare sicuramente soltanto con dei bonus che tra l'altro sono insufficienti per durata. Ora non entro nello specifico, ma sono assolutamente insufficienti, ma in generale sono le politiche dei bonus che non funzionano, politiche strutturali. Tra l'altro c'è stato anche un aumento di gioco d'azzardo, utilizzo di alcol che esprimono il disagio per l'appunto di una società, ma il disagio non è che lo affronti né spegnendolo col farmaco né cercando semplicemente di dimostrare che sei dalla parte di chi soffre e di chi prova questo disagio, stanziando qualche milione di euro per un bonus che, diciamoci la verità, servirà a poco. È una misura anche là di marketing politico. Guardate chi se ne rivendica quelle misure e capirete, insomma, quanto ci sia di marketing politico. Giuliano, scusa, era arrivata una domanda nel frattempo. Scusa, Anna, ti interrompo, entro così a gamba tesa. Tema polizia, che cosa ne pensi dei codici identificativi per i poliziotti? Allora, scusa, giusto perché poi diciamo, mi ero spostato di discorso su quello di prima, sulla questione delle droghe, diciamo, di altro tipo di sostanze rispetto alla cannabis, giusto per chiudere, poi passo alla questione della polizia, e per chiarire, cioè, diciamo, noi sulla questione delle sostanze, noi siamo per l'uso consapevole di qualsiasi tipo di sostanza e sempre per politiche di riduzione del danno. Poi nel concreto anche delle nostre esperienze, delle case del popolo che abbiamo aperto un po' in tutta Italia, noi pratichiamo questi modelli di socialità e in generale di vita che cercano di osteggiare lo sdoganamento di quelle che vengono definite droghe pesanti. Questo giusto per chiudere il discorso lì, perché diciamo, mi sono reso conto che magari sono stato un po' più generico, cioè, che ho tagliato un pochettino, diciamo, un po' tagliato con l'accetta, cioè, un po'. Sulla No, questione ma della polizia. è un argomento in effetti che è poco indagato e poco visto. In effetti ti ho chiesto un'ipertrofia, ho fatto fare un salto carpiato in avanti. Chiedo scusa, torniamo alla domanda No, di no, no, ma prima. anzi, qualche volta magari se ci riusciamo anche a incontrare dal vivo, non soltanto, diciamo, qui sui social, Ci sono. chiariamo meglio, sì. Sì, ma anche diciamo di esperienze concrete che ci sono state, non Sì. individuali, dico esperienze collettive, anche, vabbè, insomma, ora non mi dilungo perché io spero che poi avremo la possibilità di incontrarci anche dal vivo. Sulla Spero questione dei numeri. anch'io. Scusa. No, figurati, anzi, scusami tu. Sulla questione dei numeri identificativi, noi da tempo portiamo avanti la battaglia per l'utilizzo dei numeri identificativi. Ci sembra che sia anche questa una misura minima di civiltà, che in realtà poi, diciamo, tutela i cittadini e le cittadine, questa è la priorità. Questa è l'assoluta priorità, perché poi sento sempre discorsi, però così metti in discussione le forze dell'ordine. Poi in realtà anche gli stessi, diciamo, funzionari delle forze dell'ordine, gli stessi agenti delle forze dell'ordine ne sarebbero tutelati, perché si potrebbe andare a fare un po' una distinzione e non fare di tutta l'erba un fascio, anche se pure lì, insomma, io so che ci sono fortissime pressioni, anche all'interno del Parlamento, da parte delle forze politiche, affinché questo tipo di provvedimenti non passino, né ora né mai. Ci sono state, attraverso la deputata Doriana Sarli, che non so se alla fine abbia presentato una proposta o degli emendamenti, comunque si è interessata alla questione dei numeri identificativi. Lì ci sono state delle supercazzole incredibili che sono state fatte perché diciamo, il numero identificativo non va bene perché non tutela poi la privacy del poliziotto, chi detiene i dati cioè, insomma, delle preoccupazioni che. Diciamo, se ci poniamo tra di noi, perché magari stiamo scrivendo un provvedimento su questo, sono assolutamente legittime, che fatte da esponenti politici che ogni volta che ci sono le forze dell'ordine che commettono degli abusi, si alzano e subito difendono a spada tratta le forze dell'ordine senza saperne né leggere né scrivere, senza sapere minimamente come sono andati a fare, come sono andati a intervenire, mi sembra insomma assolutamente. Diciamo folle e rappresentativo di quello che è per certi versi il mondo della politica. Poi anche lì servirebbe, secondo me, un ragionamento più a 360 gradi sul ruolo delle forze dell'ordine in questo paese, su quali sono le priorità, cioè, quali sono i reati da reprimere, su quali sono, insomma, i problemi veri di questo paese, perché, per esempio, anche a livello locale, territoriale, uno dei provvedimenti che può sembrare piccola cosa, però su cui abbiamo sempre spinto e servirebbero degli accordi a livello diciamo, delle regioni, è per l'utilizzo della polizia municipale per contrasto al nero nello specifico, perché è una funzione che potrebbero svolgere anche diciamo, la polizia municipale, servirebbe formazione, servirebbero degli accordi a livello per l'appunto regionale. Noi nelle campagne elettorali che abbiamo fatto in Campania, soprattutto diciamo, in Campania, ma anche altrove, l'abbiamo posto come punto programmatico, perché è una cosa immediatamente fattibile, che anche lì non prevede dei particolari costi aggiuntivi, anziché fornirli di taser e diciamo di strumenti repressivi, servirebbe un po' di formazione su come diciamo, si va a intervenire in alcuni settori e cercare di individuare quali sono le priorità e quali sono diciamo, le aree che producono malessere e diciamo, è crimine, anche se non sono quelli che poi possono essere sbattuti sulle prime pagine dei giornali, perché certo fa più notizia magari il reato di sangue, ma non è detto che sia quello che fa più male al corpo sociale nel complesso. Ecco, vorrei concludere con la domanda di Gabriele, che è piuttosto specifica, chiede chi sono e quanti, o quantomeno, insomma, almeno quanti, i fuoriusciti del Movimento 5 Stelle che sono confluiti in Unione Popolare. Allora, al momento sono quattro deputate, sono Doriana Sarli, Yana Emma, Simona Suriano e Silvia Benedetti, e poi anche al Senato abbiamo recentemente formato la componente manifesta che è formata da Paola Nugnes e Matteo Mantero, che però rimane, diciamo, senatore di potere al popolo. Diciamo, tra questi sei, tutti quanti sostengono l'Unione Popolare, dei sei Matteo Mantero è iscritto anche a Potere al Popolo. Cioè, mentre le altre hanno fatto la scelta, diciamo, di costruire questo spazio che potesse essere uno spazio, diciamo, di riferimento per, non solo per le organizzazioni politiche, ma anche sociali e associative, Matteo Mantero invece, noi siamo estremamente contenti di questo e orgogliosi, invece ha scelto anche proprio di tesserarsi al Potere al Popolo e di portare avanti le battaglie con noi, e anche ora che questa legislatura già ci ha detto, insomma, che lui, anche da attivista di base, perché continua a credere nella regola dei due mandati, che poi era, diciamo, una sorta di pietra filosofale dei 5 Stelle, vuole continuare a dare una mano al Potere al Popolo e farlo da attivista territoriale. Oltre che con, diciamo, le competenze che poi ha sviluppato, soprattutto sui campi di cui si è interessato in questi. Lui ha fatto appunto la seconda legislatura, quindi, diciamo, grosso modo 10 anni da plantare. Bene, volevo chiederti cosa ne pensi della lettera che Acerbo ha inviato a Conte, se questa è fuori dal programma, mi è venuta così. No, però Se hai ragione, pensi avevi che... chiesto delle alleanze prima, non avevo risposto sulle alleanze, quindi c'entra un po' con la domanda di prima. Ah, ok. No, allora, su questo, noi crediamo che in questo paese, in astratto, servirebbe quello che Mélenchon ha rappresentato in Francia. Perché noi, diciamo, se dobbiamo rappresentare lo spettro politico di questo paese è fatto da due destre, una identitaria, nel senso che si crea come destra soprattutto sull'identità. Basta pensare al discorso che ha fatto Giorgia Meloni a Marbella, all'evento elettorale per Vox, il gender, la lobby LGBT, tutte queste cose qui. C'è una destra economica, che è quella del Partito Democratico, diciamo di liberismo spinto, privatizzazioni, e poi c'è un voto che, diciamo, noi speriamo di poter essere, diciamo, una scintilla, se vogliamo mettere così, un piccolo motore che può innescare motori anche più ampi per la costruzione di una sinistra, un po' come il campo in Francia, che è diviso tra, diciamo, la destra della Le Pen, la destra centro di Macron e la sinistra di Mélenchon. La questione è che, mentre in Francia Mélenchon ha costruito nel corso del tempo quel tipo di spazio, anche un certo tipo di programma, un certo tipo di parole d'ordine, un certo tipo di orientamento, qui in Italia siamo per certi versi all'anno zero. Ora, il Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, che sono poi i due riferimenti solitamente anche nella lettera di Acerbo di stamattina sul manifesto e l'intervista che gli hanno fatto, citava, possono essere dei potenziali alleati? In astratto io dico assolutamente sì, però il problema è: Sinistra Italiana a me sembra che sia strutturalmente vincolato al Partito Democratico. Il rischio, che poi è una realtà ad oggi, è che sfunga da stampella del Partito Democratico e che lo copra a sinistra, per cui rischia di essere, come l'ha definita qualcuno, la sinistra per procura, visto che il PD si è spostato molto verso il centro e quindi rischia di perdere parte di quell'elettorato più orientato a sinistra. Arriva a Sinistra Italiana, arriva a Sinistra Italiana, i Verdi, e coprono a sinistra, diciamo, tirano un po' con la coperta a sinistra. Ma poi, arrivati in Parlamento, i provvedimenti che saranno approvati saranno quelli sostanzialmente la forza maggioritaria, che è il Partito Democratico. Non si capisce per quale motivo 20 anni fa, quando c'è una sinistra più forte, non riusciva a smuovere l'allora, diciamo, quello che oggi è il PD, a approvare delle determinate misure. Non si capisce per quale motivo ci dovrebbe essere la possibilità oggi, quando questa sinistra è ancora più debole, ancora più subalterna. E questo è il discorso su Sinistra Italiana. Dopodiché, se Fratoianni, se la direzione, la segreteria di Sinistra Italiana decidessero di rompere col PD, non c'è nessun problema a costruire, diciamo, un'alleanza con loro. Sul Movimento 5 Stelle, io credo che sia ancora più complesso per certi versi, nel senso che il Movimento 5 Stelle oggi viene dipinto come forza che ha fatto cadere il governo Draghi, che si è staccata dal draghismo e anche dal PD. In realtà la mia lettura è che il Movimento 5 Stelle per certi versi l'abbia subito. Io lo dico sempre, cioè, Conte, se veramente ha fatto cadere Draghi, potrebbe anche rivendicarlo, perché se uno politicamente prende una decisione è perché ci crede e quindi la rivendica. Invece non l'ha mai rivendicata, ha sempre detto che diciamo, sono stati, tra virgolette, utilizzati per far cadere il governo Draghi. Qui torniamo alla cosa iniziale, per cui nessuno ha rivendicato il merito, o comunque la responsabilità di aver fatto cadere il governo Draghi. Ha detto che ha staccato col draghismo, ma noi abbiamo ancora 3 ministri, in realtà due, perché D'Incà è uscito dal Movimento 5 Stelle stamattina o ieri, ora non ricordo, però hanno ancora due ministri grillini che sono al governo. Non si sono dimessi, sono ancora lì, Consiglio dei Ministri, si siedono e sono ancora con Draghi. L'alleanza col PD a livello nazionale al momento non ci sarà, ma io non escludo nulla in questo momento, non escludo che ci possano essere dei passi indietro, anche se la ritengo poco probabile come prospettiva in questo momento. Ma a livello territoriale, non parlo dei piccoli comuni, ma parlo di una regione Sicilia, hanno fatto le primarie, sono andati tutti quanti a concorrere insieme, e ad oggi, dopo la vittoria della candidata del Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle è ancora in quel campo. In Lombardia si parla di un'alleanza per le regionali che che ci saranno. In altre città, città importanti, Napoli penso, il Movimento 5 Stelle è in giunta con Manfredi, che è il riferimento del PD, e ha degli assessori in questa giunta. Vogliamo parlare di questioni di merito. Anche lì, il Movimento 5 Stelle oggi si dice contrario alla guerra in Ucraina e all'invio delle armi. Ma io sono contento, e l'abbiamo sempre detto, noi apprezziamo quando uno cambia idea. Dato di fatto ad oggi però è che l'unico voto che c'è stato in Parlamento, quello di marzo, che prevedeva l'invio delle armi in Ucraina, è un voto in cui il Movimento 5 Stelle ha votato per l'invio delle armi all'Ucraina e ha votato per dare la delega in bianco al governo Draghi fino al 31 dicembre 2022. Quindi quando poi si chiede torna in aula, a Draghi di tornare in aula e di mettere a voto i successivi invii di armi, si fa una proposta politica legittima, assolutamente legittima, però si sa dall'inizio che Draghi può tranquillamente dire no, come ha fatto ripetutamente, perché gli stessi 5 Stelle gli hanno dato la delega in bianco. Cioè, diciamo, ci sono diversi punti su cui, se si facesse chiarezza, se il Movimento 5 Stelle finalmente facesse chiarezza, noi saremmo soltanto contenti che il campo di cui noi sentiamo parte si possa allargare. Dobbiamo parlare ancora dei decreti sicurezza che sono stati firmati, quella foto di Conte e Salvini con in mano i cartelli sui decreti sicurezza è ancora viva nella nostra memoria. Poi magari tante persone possono dimenticare, ma noi non dimentichiamo. Non significa che una persona non possa cambiare idea, però anche lì significa, tra virgolette, fare autocritica, dire che non si era capito niente, che sono fatti degli errori abissali. E ancora posso citare tantissimi provvedimenti che sono passati in questi anni, anche col voto del Movimento 5 Stelle, per cui, visto che io continuo a pensare che in politica la virtù principale sia la credibilità, non mi sembra che sia un movimento credibile. Posso capire che c'è un riassestamento, e infatti dico, se ci fossero tutta una serie di cambiamenti, nulla, cioè noi non chiudiamo le porte a nessuno, però ci devono essere questi cambiamenti. Onestamente, a me sembra che ci sia anche qui molto marketing politico e che per certi versi ci sia più, cioè, uno schiacciamento, se mi permette, a sinistra del Movimento 5 Stelle, più per la narrazione che ne viene fatto. Cioè, è Di Maio che ha definito Conte e il Movimento 5 Stelle un partito di estrema sinistra. Onestamente, ci sono una serie di cose che non vedo, e che magari vorrei anche vedere, però non le vedo, cioè, la questione, noi andiamo avanti per la nostra strada, portiamo avanti delle posizioni, delle proposte politiche. In alcuni casi ci può essere sulla singola proposta, diciamo, anche la comunanza di vedute col Movimento 5 Stelle e con altri, in altri casi no. Io, ad esempio, personalmente il bonus, il 110%, sul bonus 110%, non lo vedo come questa grandissima misura, come invece Conte ha posto nei 9 punti. È stata non solo scritta male, ma secondo me è per la questione degli abusi, che sono, diciamo, molto più pesanti rispetto a quelli del reddito di cittadinanza, e i media si concentrano sul reddito e non sui vari bonus casa, non soltanto sul bonus 110%, ma è una misura che strutturalmente è pensata non per i più, diciamo, per le fasce più disagiate, ma per, diciamo, fasce, non voglio dire super ricche, anche se ci sono stati anche dei casi di castelli che sono stati inseriti nel super bonus. Quindi, diciamo, apertura sì, però poi arrivo e chiudo su questo. C'è anche l'altra questione: mentre gli altri possono continuare a giocare e fare i giochini di Calenda che doveva decidere stasera, non so se abbia deciso l'alleanza col PD, e questi aspettano tutti quanti perché tanto non devono raccogliere le firme, noi le firme le dobbiamo raccogliere, per cui noi inutili dobbiamo sciogliere non il 20 agosto, le dobbiamo sciogliere domani mattina. E se uno vuole costruire qualcosa con noi, ci sono i telefoni, ci sono i social, ci sono, insomma, i vari contatti, i vari pontieri che si possono utilizzare. Non è arrivato nulla da questo punto di vista e noi ce ne facciamo una ragione. Evidentemente il Movimento 5 Stelle, nello specifico, vuole tenersi le mani libere, perché poi, arrivato in Parlamento ad ottobre 2022, avrà le mani libere, magari è interessato a ricucire col PD, magari non appunto in fase elettorale, ma in fase post-elettorale, a costruire qualcosa di nuovo insieme in Parlamento, visto che hanno già dimostrato di poter fare tutti, alleanze con tutti e col contrario di tutti, anche quando hanno detto mai con questo e mai con quest'altro. Bene, mi sembra di capire che la situazione sia ancora molto, molto in evoluzione. Facciamo che noi ci lasciamo con l'idea di risentirci eventualmente se sopravviverai alla tensione continua, insomma, magari dopo appunto il 20, che mi sembra la data Sì, noi molto siamo dati probabile. la deadline è il 22 ufficialmente, noi siamo dati il 21 proprio per evitare i problemi dell'ultimo minuto, quindi, diciamo, dal 22 è grosso modo ufficiale la candidatura, ma noi siamo convinti di farcela, perché anche questo, cioè, perché Di Maio si fa dare il simbolo da Tabacci? Perché sa che non le raccoglierà le firme. Noi elettoralmente nel 2018 abbiamo raccolto l'1,13%, che poi comunque significa 375.000 voti, che non è poca roba. Con altre leggi elettorali in altri paesi si eleggono dei parlamentari anche con una percentuale di questo tipo qua, ma soprattutto abbiamo un corpo di attiviste e di attiviste che ogni giorno è sui territori, per cui sappiamo di poter raccogliere le firme. Abbiamo sicuramente bisogno di volontari e volontarie della democrazia, quindi poi a prescindere prescindere dalla condivisione o meno del progetto, a prescindere dal voto che esprimerete anche voi il 25 settembre, quello che mi sento sicuramente di chiedervi oggi è di darci una mano per la raccolta firme, perché è una questione di democrazia, non è un piacere a Unione Popolare, è una, diciamo, una sfida democratica che abbiamo davanti. Bene, ti ringrazio di nuovo molto, ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato e che avranno la pazienza di ascoltarci anche magari in un altro momento in differita. Se coffee break o non ha nulla da aggiungere, non ci sono altre domande, chiudiamo qui e a risentirci. No, ne approfitto per ringraziare a mia volta Giuliano e augurare buona serata a tutti. Grazie mille a voi, veramente. Grazie di nuovo, chiudo lo spazio. Ciao. Ciao.